si partu di stu paisi, oi paesano mia, santi sustisi, t'ha fatto la valigia con rimpianto, lassanno la famiglia e la tua gente. Du cori tu c'è tanta nostalgia, oi paesano, paesano mia. Una cosa fatto quando si partuto, brigando la Madonna pittiruto, ha fatto una promessa a chi sta santa, ritorna e stappi sempre alla tua gente, picchi senza stichi ci lo bene, fino a chi mora non si può scordare. La chiedo giorno che si chiudo via, noi senza stessi che parlami tia, con la speranza che non siano su a noi, noi aspettiamo che senza sti torni, fino alla sana e chiudo il tuo paese. Oi paesano mia, santi sustisi, fin non lascia mai più il tuo paese. Oi paesano mia, santi sustisi. Hey!